Il giornale è tutto nuovo, sì. È nuovo nella veste grafica, che cerca di essere più facile da leggere, più veloce, articoli un po' più brevi. È nuovo nel gruppo della redazione, che ha acquisito tante persone nuove, molte senza dimora. E è nuovo nel modo in cui lo diffondiamo, nel senso che ci siamo dati proprio degli appuntamenti con i cittadini di Bologna in alcuni luoghi per poter parlare direttamente di queste notizie, per non leggere la notizia, elaborarla da soli, magari scrivere un commento arrabbiato. Con la rabbia c'è, va bene, parliamone. Perché l'emarginazione è un tema che tocca da vicino tutti noi, ci tocca se la stiamo vivendo, ci tocca se ci lavoriamo per cercare che non avvenga, ci tocca anche semplicemente se stiamo bene e ci chiediamo ma com'è possibile che nella stessa città io possa avere questo, lui no. È una questione di fortuna, è una questione di scelte politiche, è una questione di non volontà delle persone, perché? E il giornale di Piazza Grande non ha una risposta a questo perché, però vuole parlarne insieme e costruire anche una visione comune, cittadina di questo fenomeno, partendo dalle storie di vita, partendo dalle situazioni concrete che ogni persona si trova ad attraversare. È un giornale anti-solitudine, lo battezzerei così. 25 anni di Piazza Grande, insomma, è cambiata Piazza Grande questi 25 anni e come sono cambiate invece anche le strade di Bologna? Caspita, sei cambiata. Il giornale è nato prima di Piazza Grande, infatti vi do un'anteprima che non ho detto prima, noi festeggeremo i 25 anni dell'associazione la prossima primavera ed estate, perché prima è nato il giornale, c'era questa esigenza di farlo. E è cambiata perché da essere un'associazione con poche persone, molto basata sul volontariato, adesso è diventata sia un'associazione ma sia una cooperativa che gestisce più di 100 appartamenti, ha importato un progetto di Housing First che permette alle persone di non stare nelle strutture di accoglienza ma proprio in una casa propria, e questo facilita tantissimo il reinserimento sociale, perché pensate a trovare lavoro quando si vive in una struttura o cercare lavoro quando invece si può tornare la sera a casa propria. Tra l'altro stiamo sempre cercando appartamenti perché sono progetti che crescono e che funzionano molto bene. È cambiata perché ci sono tanti professionisti di fianco ai volontari, non è cambiata la risposta della città e l'interesse verso e il sostegno verso questi temi. E come sono cambiate le strade di Bologna, proviamo a raccontarlo. La marginalità, i senza dimora una volta magari erano persone che da tanto tempo familiarmente avevano sperimentato questa condizione. E adesso è diventato la povertà purtroppo uno scivolamento, sì, la solitudine, la povertà, la difficoltà ad avere qualcuno a cui affidarsi anche per dei problemi facili. Pensiamo a una lampadina fulminata per un anziano da solo in casa. È diventata anche un po' una povertà di legami, di relazioni, di fiducia, di senso di potersi fidare nelle altre persone. In questo senso Piazza Grande è davvero in prima linea, perché apriamo dei posti tipo i laboratori di comunità dove ci sono cittadini con e senza dimora che fanno attività insieme per conoscersi. Stiamo in piazza col giornale, stiamo provando a tornare a incontrarci, perché la solitudine e l'ignoranza di quello che è vivere in una condizione di emarginazione fa solo aumentare questo problema e crea un senso di insicurezza di tutti quanti, mentre conoscere, parlare, sentire anche la parte umana che esiste sempre in tutte queste storie ci fa risuonare delle componenti nostre umane di tutti e ci fa capire quanto siamo davvero un unico grande comunità. Dopo la prima presentazione alla stampa della nuova edizione di Piazza Grande ci sarà anche una festa per celebrare il compleanno e di autofinanziamento. Sì, sarà a dicembre al TPO, inizia alle 6 con una tavola rotonda, ci sarà un attore poi che leggerà degli articoli tratti da giornali di strada e poi si cena tutti insieme. C'è un menù vegano, un menù per bambini, un menù insomma più tradizionale con la carne. L'idea è quella di creare un posto accogliente, inclusivo per chiunque. Come si fa? Ci si prenota, così sappiamo quanta spesa fare, alla mail comunicazione@piazzagrande.it, ed è il pretesto per stare insieme e festeggiare nel modo più informale, più leggero possibile, una bella notizia che è il ritorno appunto in strada del giornale di Piazza Grande che compie 25 anni. E 25 anni è un'età in cui si inizia a far sul serio, a trovarsi cosa si fa da grandi, no? E io penso che per noi è bellissimo vedere i cittadini di Bologna, autorità o cittadini proprio che hanno incontrato il giornale per strada, stare insieme a noi, perché ci sentiamo un po' dei custodi di un qualcosa che è un patrimonio della città, e quindi farlo tutti insieme per noi è bello, è proprio un bel segno.